Hashtag Autotrasporti. Buongiorno, buongiorno da Andrea Ferro e ben ritrovati all'appuntamento del lunedì per parlare di trasporti e logistica. La notizia di queste ore è la firma del contratto nazionale per i lavoratori e del settore. Tra le associazioni datoriali e sindacati l'accordo sul rinnovo è stato raggiunto proprio nel fine settimana dopo 2 anni di trattative tra strappi e ricuciture. Alla fine di ottobre anche 3 giorni di sciopero. I punti qualificanti del nuovo contratto da Enzo Solaro, segretario generale di Fedit, una delle associazioni dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Intanto siamo riusciti ad introdurre nella struttura del contratto delle flessibilità importanti in materia di orario di lavoro. Questo era un contratto molto rigido, adesso diventa un contratto interessante per le imprese perché ha le flessibilità che sono indispensabili per un settore come il nostro. Di rimando abbiamo introdotto regole un pochino più stringenti in materia di appalto e, se dovessi dire, in materia di salario l'accordo è equilibrato, riconosce un aumento che è di 108 euro a regime e che quindi è in linea con i rinnovi contrattuali sostanzialmente di questo ultimo anno e, come dire, è gestibile dalle aziende. Direi un contratto equilibrato. Questo è un contratto che interessa quasi 500.000 addetti in tutto. Sul fronte delle rotte internazionali di merci, la notizia di questi giorni è la partenza, avvenuta martedì scorso, del primo treno in marcia dall'Italia verso la Cina e quindi lungo la nuova Via della Seta. Il convoglio si è mosso dal terminal ferroviario del polo logistico integrato di Mortara, in provincia di Pavia, per affrontare un viaggio di 10.800 chilometri. Un viaggio che durerà 18 giorni, cioè poco meno di un terzo di quanto impiega una nave a coprire la stessa rotta. Il treno arriverà a metà dicembre a Chengdu, capoluogo del Sichuan, sta trasportando una ventina di container di prodotti made in Italy, in particolare macchinari, mobili, manufatti in metallo, piastrelle e componenti per automobili. Tra un paio di settimane ci sarà l'inaugurazione del collegamento in senso inverso, cioè dalla Cina all'Italia, poi da gennaio la nuova Via della Seta entrerà a regime con 2 coppie di treni settimanali, destinati in prospettiva a diventare 3, e dipenderà dalla domanda. Quindi oggi torniamo a parlare della nuova Via della Seta, tema centrale di questi mesi e dei prossimi anni. Come vi abbiamo raccontato già nel reportage andato in onda a ottobre, la nuova Via della Seta è un colossale piano infrastrutturale varato dal governo di Pechino per accorciare le distanze e invadere i mercati di merci, un'espansione non solo commerciale destinata a ridisegnare i confini della geopolitica mondiale. Una grande opportunità, insomma, per la nostra logistica, quindi dai porti e trasporti stradali e ferroviari, ma anche un rischio qualora il nostro sistema non dovesse trovarsi pronto ad intercettare questi grandi traffici, nonostante la favorevole posizione geografica. Ne abbiamo parlato con Enrico Musso, direttore di Cieli, centro italiano di eccellenza sulla logistica integrata dell'Università di Genova. Insomma, la Via della Seta non è solo sulla carta. In realtà si tratta di capire quali sono i numeri che potranno realisticamente essere messi in gioco nei prossimi anni, ma ci dà un'idea di una cosa molto importante, cioè bisogna pensare ai traffici, anche a quelli intercontinentali, anche fra la Cina e l'Europa, in termini di sistema. Non si può più ragionare in termini, per esempio, di queste merci arrivano o non arrivano al porto di Genova o ai porti liguri o ai porti italiani. Quello che conta è alla fine dov'è la regia delle operazioni di trasporto e logistiche che avvengono a livello internazionale. E il rischio è che se non si coglie questa opportunità. Sì, diciamo che questo mondo ormai vive molto di più rispetto all'era pre-container che è cominciata 50 anni fa. Diciamo, se noi facciamo un confronto fra oggi e 50 anni fa, allora era una sequenza di monopoli geografici. I porti potevano contare sul fatto che le merci dovevano fare la rotta più breve e se una merce doveva passare di lì, appunto, non c'erano tante alternative. Oggi i trasporti costano pochissimo rispetto al passato e quindi significa che tutti i nodi della rete sono molto più in concorrenza e sono molto più in gioco, quindi è molto più a rischio. Se uno è inefficiente, è costoso, è lento, è burocratico, viene saltato e viene sostituito con uno che magari geograficamente è più lontano, ma ormai in termini di costi questo non conta più troppo. Un'altra questione centrale di questi giorni riguarda la convocazione al Ministero delle associazioni del mondo dell'autotrasporto, un incontro sollecitato per affrontare questioni vitali per il comparto. Sull'esito dell'incontro avvenuto la scorsa settimana, alla fine è stata espressa una sostanziale soddisfazione da parte dei rappresentanti del settore. Sentiamo Pasquale Russo, segretario di Unatras. Abbiamo ricevuto le risposte che aspettavamo relativamente all'impegno delle risorse finanziarie. Era stato presentato un emendamento al collegato finanziario che aveva sottratto 50 milioni di euro previsti per l'autotrasporto, e nella riunione che si è tenuta la scorsa settimana invece ci hanno confermato che quell'emendamento è stato corretto e quindi sono ritornati alla 50 milioni originariamente sottratti. C'è la conferma di tutte le risorse economiche previste così come erano previste nel 2016, e quindi sul fronte delle disponibilità economiche per il sostegno alla categoria possiamo dirci soddisfatti. Altre questioni però restano aperte. Mi riferisco in particolare alla questione annosa ormai di trasporti eccezionali, che ancora non ha trovato una soluzione. Il problema, che diventa sempre più complicato, della funzionalità delle motorizzazioni. In alcune zone del paese registriamo ancora dei fortissimi ritardi, delle fortissime inefficienze. E inoltre abbiamo voluto sapere dal governo come intende procedere sulla questione strategicamente fondamentale dell'approvazione del pacchetto mobilità ad opera degli organismi comunitari. Del pacchetto mobilità, e quindi della madre di tutte le questioni, cioè il dumping sociale e la concorrenza sleale praticati dai paesi dell'est, il ministro Graziano Del Rio parlerà domani a Bruxelles in occasione del vertice dei ministri europei dei trasporti. Del Rio proporrà misure più stringenti sul cabotaggio stradale, cioè la possibilità per i vettori esteri di svolgere trasporti nazionali all'interno del paese nel quale sono giunti per un servizio internazionale. Una posizione quindi che va nel verso contrario rispetto agli orientamenti espressi dalla Commissione europea e più improntata ad una sostanziale liberalizzazione del mercato. Una partita delicatissima, come ripetiamo ormai da tempo, ma fondamentale per il futuro dell'intero settore, ora come ora dilaniato da un mercato squilibrato. Un dato ulteriore che cristallizza la situazione arriva dal Trentino Alto Adige, ce lo offre CNA Fita, che ha lanciato la campagna hashtag Stop Dumping. Nella regione, in 6 anni, dal 2009 al 2015, le aziende di trasporto sono passate da 1347 a 1700. Cioè il 20% delle imprese ha chiuso. A soffrire soprattutto le aziende artigiane. A livello nazionale, sempre tra il 2009 e il 2015, se ne registrano 25.000 in meno. Ricorderete l'ottobre dell'anno scorso ad Annone Brianza, in provincia di Lecco, il crollo del cavalcavia con un automobilista travolto e ucciso, un'infrastruttura diventata simbolo della precarietà di una parte della nostra rete. Dopo 13 mesi sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando per la ricostruzione del cavalcavia. Il progetto prevede la realizzazione su due lati della strada di un percorso pedonale e di una pista ciclabile. Il costo complessivo dell'opera si aggira intorno ai 2 milioni di euro. E ora a Taranto, all'Ilva, dopo il ricorso al TAR da parte della Regione Puglia e del Comune contro il decreto con il quale era stato approvato il nuovo piano ambientale proposto da ArcelorMittal e InvestCo, sale l'incertezza sul futuro del gruppo e quindi sulle prospettive di chi vi lavora. Tra questi ci sono anche gli autotrasportatori, che vantano già crediti per 25 milioni di euro relativi al periodo antecedente l'amministrazione controllata. Come sentiamo da Giacinto Fallone di Casa Artigiani, altre imprese potrebbero portare presto i libri in tribunale. Noi eravamo già preoccupati da molti mesi, l'azienda produce poco, vende poco e quindi il lavoro scarseggia per tutti. È un'azienda che ormai si regge sui soldi dello Stato, poco acciaio e molti debiti. Quindi le preoccupazioni c'erano, la quasi certezza di aver perso i soldi pregressi dal 2014, che già l'anno prossimo ci obbligheranno a portare i libri in tribunale, perché registrandoli come perdite, ricevendo dal Tribunale di Milano la comunicazione che siamo diventati tutti chirografari, automaticamente le perdite supereranno i capitali sociali e, oltre ai debiti che già abbiamo, non riusciremo più a stare in piedi fiscalmente per le leggi italiane. Adesso si sono scatenati tutti i tuttologi che vogliono la chiusura dell'Ilva. A questo punto io personalmente sono favorevole alla chiusura, perché così dovranno dare delle risposte a 14.000 dipendenti, 7.000 dell'indotto è tutto quello che gira intorno di terziario e di commercio, che a Taranto è già ridotto all'osso. Hashtag Autotrasporti finisce qui, grazie per l'attenzione, noi ci risentiamo lunedì alle 13.45, ma vi ricordo anche l'appuntamento del sabato alle 13.15, Massimo De Donato in onda con Container, un approfondimento su questi temi. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.